Camminare domandando. La Bibbia è il libro delle domande più che delle risposte. E anche la venuta di Gesù, invece di spegnere le interrogazioni, sembra radicalizzarle, come nel nostro testo. Gesù interroga i suoi a proposito della sua identità. Chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Sarà un po' complessina la riflessione, però gira attorno a un'idea. Le domande di Gesù sembrano banali, come dire, vediamo se avete capito la lezione, oppure sotto ci può stare l'identità personale. È un dato acquisito? Gesù invece ha dovuto costruirsi la propria identità attraverso un processo di identificazione. Se l'ha costruita. Non è che ha fatto il furbetto, fa finta di fare domande, ma lui sa già che cosa ha. No. È interessante questo passaggio perché ci rende un Gesù molto più concreto, o meglio, molto più umano, o meglio ancora, molto più vicino anche alle nostre storie personali e collettive. Quindi Gesù ha dovuto costruirsi la propria identità attraverso una conquista, attraverso un processo. Ha avuto bisogno di vedere confermato quanto gli è stato rivelato nel battesimo prima e nell'evento della trasfigurazione più tardi. È interessante. Gesù ha avuto bisogno di Pietro, dei discepoli, della gente, per leggere la sua storia così come la stava maturando e la stava vivendo. Cioè, in pratica, di capire fino in fondo se stesso. C'è un passaggio adesso che voglio fare, ed è un pensiero un po' complesso. Quello che vale per Gesù, a maggior ragione, riguarda ogni essere umano. Come puoi dire chi sei tu? Senza interrogare chi sta attorno a te. Va bene andare oltre il giudizio della gente, non rimanere vittima del giudizio della gente. Se si intende con questo conservare una propria libertà di giudizio, uno stile non conformista in pratica. Ma non potrà essere sempre così. Quasi fossimo privi di legami affettivi, privi di relazioni. Le persone, la gente, come per Gesù a Cesarea, ci rimanda un'immagine che allarga la propria identità personale. Dentro però, in uno trascorrere della storia, negli eventi che viviamo. Allora, Gesù costruisce la sua identità, cerca di capire qualcosa di più della sua missione, riferendosi per esempio a Giovanni Battista, a Elia, a Geremia, ai profeti. Quindi la sua identità viene collocata nella rete delle relazioni storiche. Pietro risponde quanto gli è stato rivelato dal Padre. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E a questa relazione che il brano ci offre una lettura provocatoria. Ed è decisivo non solo che cosa Dio ci rivela, ma soprattutto è il come ce lo rivela. Cosa vuol dire questo? Che la rivelazione scaturisce da un confronto di ricerca. Beati gli uomini che ricercano. No, non è mica un lampo che si manifesta agli occhi privilegiati. È un processo che nasce dal domandare: chi dite che io sia? La reazione di Gesù alla risposta di Pietro è una reazione di gratitudine. Lo chiama beato. Pietro confessa la sua fede in Gesù, confermando quindi quanto Gesù ha bisogno di conoscere di sé. E a sua volta Gesù rivela qualcosa a Pietro della sua identità di discepolo. C'è un passaggio adesso che è la fine del brano del Vangelo, e così chiudo. Il nuovo nome di Simone a Pietro rimanda alla identità della Chiesa. Calma, perché quando usiamo questa parola, si scuote su. Un edificio non fatto da mattoni come il Tempio, ma da persone che riconoscono Gesù Messia. E su tale fede provano a tessere nuove relazioni. Se permettete un'espressione un po', diventano costruttori del sogno di Dio. Vengono così date le chiavi del regno, cioè del mondo come Dio lo vuole. Chi crede in Gesù non è ospite o rifugiato del regno di Dio, ma diventa il padrone di casa. Non è schiavo, ma libero. Le chiavi gli permettono di entrare e uscire, aprire e chiudere, di creare legami nuovi basati su criteri alternativi all'appartenenza familiare, sociale, economica. È dato a Pietro, come ad ogni discepolo, quindi anche a ognuno di noi, il potere di sciogliere tutti quei meccanismi perversi che affogano la vita nell'oscurità degli inferi. È la fede ad essere la roccia su cui costruire. Questo richiede la responsabilità di aprire e chiudere, legare, sciogliere, discernere nel concreto però della nostra storia, sia personale, sia di popolo, quindi sia di Chiesa, la storia quanto Dio Padre desidera rivelarci. È un po' complessina la cosa, però siete intelligenti. Riuscite a sopperire al mio risottino. Gloria a Dio nell'alto del cielo. Pace in terra, uomini di buona volontà. Santificati.